piano. Di Enrico Ruggeri. Questo è un argomento del quale non si vorrebbe mai sentir parlare, però ogni tanto bisogna trattarlo, non si può lasciar passare tutto sotto silenzio. È l'argomento della violenza sulle donne. Non parliamo solo dei femminicidi, che sono la punta di un iceberg, sono l'atto estremo di un uomo che uccide una donna che prima ha amato e da cui poi si è sentito respinto, abbandonato, umiliato, un gesto vigliacco, terribile, che nasconde tante cose, un malessere mentale, l'impossibilità ad accettare una sconfitta, meglio morta che con un altro, quindi una carenza strutturale dell'anima. Ma parliamo di tutte quelle donne che in silenzio, magari tra le mura di casa, ma con le porte chiuse, con le tapparelle abbassate, magari con la TV a volume alto, sono costrette a nascondere le percosse e altre umiliazioni fisiche e psicologiche da parte di mariti che si sentono in diritto di comportarsi da padri padroni, da capi branco, che si accaniscono per mantenere una supremazia territoriale con un modo di fare più simile agli animali che non agli uomini. E poi però accade che qualche donna trovi il coraggio di reagire, magari denunciando il proprio consorte, mettendo fine alla violenza con l'aiuto della legge. Non è semplice, soprattutto in Italia, dove, come sappiamo, le leggi sono malfatte e soprattutto nessuno è in grado di applicarle. Però accade a volte che una donna raggiunga il punto di non ritorno, cioè che risponda con violenza alla violenza, alla disperazione che si fa reazione estrema. Questo è quello che è accaduto a Jacqueline Sauvage. 5 giugno 1965, beh, io compivo 8 anni, ma non è questo il punto. Il punto è che una donna nata a Melano, una cittadina nel centro della Francia, nata il 27 dicembre del 47, il 5 giugno 65 si sposa. È il giorno che ogni donna desidera, soprattutto le donne di quella generazione. Quindi abito bianco, campane che suonano, fiori, parenti che applaudono, il giorno del matrimonio. Lei non ha ancora 18 anni, però vuole andare via da casa, vuole farsi una vita. Lei ha una famiglia numerosa, 5 fratelli, 2 sorelle. E anche lì lei non è in una famiglia felice, perché il padre è un padre padrone che picchia la madre, così il matrimonio diventa una via di fuga. Lei vuole rifarsi una vita diversa accanto all'uomo che ama, e invece purtroppo dalla padella si passerà alla brace. L'ho amato con passione. Ci siamo conosciuti a 16 anni. Eravamo entrambi molto giovani, ma ci siamo innamorati. Lui per me è stato da subito un punto di riferimento. Abbiamo voluto sposarci subito, anche se la mia famiglia non era d'accordo, soprattutto i miei fratelli. Lui è Norbert Marot, ha qualche mese più di lei, quindi due semplici ragazzini travolti dalla passione decidono di sposarsi per vivere il loro sogno d'amore. E spesso accade, però la giovane età spesso non aiuta. Tutto sembra bello all'inizio, si vive di sogni, di passione, poi arriva la quotidianità, arrivano i problemi, le difficoltà, le bollette da pagare, il lavoro duro, tutto cambia. Si può reagire in due modi: uno, rimboccarsi le maniche, iniziare a remare, e il secondo è invece arrendersi, dare sfogo alla rabbia. Jacqueline Sauvage è una donna semplice, sa fare la sarta, si ritrova a fare la madre, e la coppia nei primi 6 anni ha 4 figli, 3 femmine e un maschio. Norbert è un camionista, lavora per una ditta di trasporti, le cose vanno bene per un certo periodo, poi però la ditta chiude, Norbert Marot si trova senza lavoro, aumentano le preoccupazioni e l'ambiente familiare comincia a deteriorarsi. Si è cominciato per dei gifle. È cominciato tutto con qualche schiaffo, qualche spintone, e poi, un po' alla volta, questo comportamento violento nei miei riguardi è diventata la normalità. Quando Norbert aveva qualcosa che non andava, la moto che si rompeva, un rimprovero sul lavoro o qualcos'altro, lui si sfogava su di me, mi insultava, mi picchiava. E dopo che mi aveva picchiata, stavamo in casa senza uscire, in modo che nessuno mi vedesse con i lividi. Che personne. Je me roulais en boule et j'attendais que ça se passe. E E dopo il licenziamento di Norberi, i due si organizzano, lui riesce a comprarsi un camion, fa il padroncino, la moglie si occupa della contabilità e intanto le tre figlie crescono. Pascal, l'unico maschio, comincia a lavorare con le ragazze nell'impresa di famiglia. Norberi è sempre in viaggio e spesso i viaggi lo tengono lontano da casa per giorni, e questo è un modo per tirare un respiro di sollievo per tutti, perché lui comincia a estendere il suo comportamento violento anche nei riguardi dei figli. Partiva all'inizio della settimana e noi riuscivamo a vivere la nostra vita con serenità, ma era sufficiente che sentissimo il rumore del camion da lontano per metterci tutti in agitazione. Tante volte io e i miei figli abbiamo dormito in macchina perché lui tornava imbestialito e noi non potevamo fare altro che scappare, lasciandolo solo in casa. I vicini di casa sentono le litigate, le grida di Norbert che si accanisce contro la moglie e contro i figli, però c'è un sentimento di indifferenza. Al giorno d'oggi ci si gira dall'altra parte, non ci si mischia, è complicato insomma chiamare la polizia per dire guardate che da un'altra parte si stanno menando, ognuno ha i suoi problemi, però l'ambiente che si respira in quella casa è molto pesante, la situazione assomiglia a un vulcano che sta per esplodere lasciando libera tutta la sua violenza. Il falco e il gabbiano. Gli anni passano, i figli stanno diventando grandi, però Jacqueline Sauvage nella sua casa di questo anonimo paesino della Francia centrale sta convivendo con le sue paure, con la violenza che il marito Norbert Marot riversa metodicamente su di lei. Lei ormai ha imparato a memoria il modo di comportarsi del marito, sa fino a che punto può contraddirlo senza scatenare la sua violenza, sa sopportare le umiliazioni, le botte, però in questa sofferenza estrema lei non trova né la forza di denunciare suo marito né tantomeno la forza di lasciarlo. Je ne pouvais pas partir. Non potevo andarmene. Avevo i miei figli, erano piccoli. Cosa avrei potuto fare per mantenerli tutti e quattro? Dovevo restare con loro per proteggerli. Eh sì, perché quando i bambini diventano più grandi, le attenzioni di Norbert si spostano nei loro confronti verso il maschio, Pascal, che viene sottomesso dal padre, ridotto al silenzio con minacce più o meno esplicite, e verso le tre figlie, Sylvie, Carole e Fabienne. E lui comincia a dedicare a queste bambine qualche attenzione di troppo. Ha violentato una delle mie figlie. Lei aveva solo 13 anni, ma questo io l'ho saputo solo anni dopo, quando lei ne aveva 25. È una cosa talmente terribile da pensare che non riesco neanche a parlarne. Per me era una cosa inimmaginabile. Non pensavo che potesse accadere. A volte non si riesce a comprendere come certe situazioni possano andare avanti per così tanti anni. Da spettatori esterni si pensa che l'unica soluzione sia quella di rivolgersi alla polizia, denunciare il marito, ma in situazioni come queste niente è facile, perché la violenza toglie lucidità non solo a chi la pratica, ma anche a chi la subisce. È difficile prendere una decisione quando ci si trova a dover condividere ogni notte il letto col proprio carnefice. Jacqueline è una donna che anche nella sofferenza è riuscita a mantenere un barlume di questa lucidità, limitando il più possibile i danni per lei e per i suoi quattro figli. Lo ha fatto per 47 lunghi anni. J'ai voulu partir, j'allais chez mes enfants, Ho provato ad andarmene. Qualche volta sono andata via di casa e sono andata a casa dei miei figli, ma alla fine ero costretta a tornare, perché venivo a sapere che lui mi stava cercando dappertutto, dicendo a tutti che era disperato e che aveva bisogno di me. Poi, quando tornavo a casa, trovavo le mie cose distrutte, i miei vestiti bruciati e... mio Dio, è così difficile raccontarlo. C'est dur. La ditta di trasporti messa assieme da Norbert Marot e dalla moglie è in crisi. Ormai solo Pascal lavora col padre, il figlio maschio, e bisogna prendere una decisione drastica. La sera del 10 settembre 2012 c'è un'altra discussione, l'ennesima, pensano i vicini, che ormai sono abituati a tutto e sono arrivati a un punto di indifferenza totale. Ma a casa ci sono dei fucili E sia Norbert che Jacqueline li sanno maneggiare molto bene, perché entrambi hanno la passione della caccia. Quella sera le grida che derivano dall'ennesimo litigio sono interrotte dal rumore di uno sparo. Jacqueline Sauvage si è occupata tutto il giorno delle scartoffie dell'impresa dei trasporti. Quando Norbert torna a casa inizia una nuova discussione, e la discussione è esasperata dal fatto che lui torna a casa completamente ubriaco. Aveva bevuto, ma beveva molto, non era una novità. È entrato in casa, è salito in camera e ha sfondato la porta a calci. Mi ha picchiata, mi ha minacciata e ha cominciato ad urlare dicendo che avrebbe ucciso me e i miei figli, che era stanco di me e che me l'avrebbe fatta pagare. Mi ha preso per i capelli e mi ha trascinata nel corridoio e poi mi ha tirato un pugno fortissimo, ed è allora che si è spento tutto. È il momento. Jacqueline Sauvage perde completamente il controllo delle sue azioni, comincia a muoversi meccanicamente, non si rende conto di quello che sta facendo. Norbert sta uscendo di casa tenendo ancora in mano il suo bicchiere. Lei va a prendere il fucile da caccia, lo carica, rincorre il marito e spara. Tre colpi coi quali Jacqueline Sauvage colpisce il marito alla schiena, l'uomo cade a terra, l'incubo è finito, per lui non c'è più nulla da fare. Non avrei mai voluto che finisse così. Per me è stato un momento in cui c'è stata un'esplosione nella mia testa che non avevo mai provato prima. Ho agito per difesa, per difendere i miei figli prima di tutto e me stessa. Quella sera mi avrebbe ucciso. E lei stessa a chiamare la polizia, si fa trovare in casa col fucile posato sul tavolo, il corpo del marito per terra, e viene arrestata, portata in commissariato, racconta quello che è accaduto, ma racconta quello che è accaduto in quel momento. Per lei scatta l'accusa di omicidio ed è l'inizio di un'altra odissea, un'odissea per una donna che non è più riuscita a sopportare l'ennesima violenza, l'ennesima umiliazione. Una donna che, davanti alla minaccia di vedere uccisi i suoi figli, già così provati psicologicamente e fisicamente, non ha retto e non ha fatto altro che accendere la miccia dell'autodifesa. Possiamo chiamarlo istinto animale, possiamo chiamarlo colpo d'ala, anche se stiamo parlando di uno scenario terribile. E ognuno di noi però a un certo punto deve mettersi in salvo, e ci sono momenti nei quali non si può pensare alle conseguenze delle proprie azioni. Jacqueline è solo una delle 200.000 donne che, secondo le statistiche, in Francia subiscono violenza da parte del loro compagno. Però qui le statistiche contano poco. Rimane il corpo di Norbert per terra, colpito alla schiena tre volte. Jacqueline, a parte il segno di un pugno sul viso, non presenta altre tracce di violenza subita in quel momento. Adesso sarà lei che dovrà dimostrare che quello che ha fatto era l'unica azione possibile per evitare altre morti, uccidere per non essere uccisa, per difendersi dall'orco, da quest'uomo spregevole. Il falco e il gabbiano. Stiamo raccontando una storia terribile, la storia di Jacqueline Sauvage, una donna che purtroppo ha un destino che condivide con milioni di donne nel mondo. Maltrattata, picchiata da un marito violento, maltrattamenti estesi ai quattro figli, violenze sessuali su una delle figlie quando lei ha solo 13 anni. Jacqueline ha vissuto 47 anni di matrimonio nel terrore, senza avere la forza di denunciare quello che accadeva tra le mura domestiche, fino a una sera, la sera del 10 settembre 2012, quando al culmine della ennesima lite lei carica il fucile da caccia e spara tre volte al marito, uccidendolo. Accompagnata al commissariato, viene raggiunta dalle tre figlie. Pascal, il figlio maschio, non c'è. È in quel momento che Jacqueline Sauvage viene a conoscenza di un'altra tragedia terribile, la peggiore, una tragedia che si è abbattuta sulla sua famiglia. E c'est là qu'ils sont venus avant mon interrogatoire. Sono venute delle persone prima dell'interrogatorio e mi hanno detto: signora Marot, suo figlio è morto. In quel momento tutto mi è sembrato finito. Non capivo più nulla, stavo vivendo un incubo. Ho saputo che mio figlio si era suicidato nella notte tra sabato e domenica. Eh sì, Norbert Marot ha sulla coscienza anche questo, perché la notte dell'8 settembre il figlio Pascal, per anni maltrattato, umiliato dal padre, decide di suicidarsi stanco di quella vita terribile fatta di prostrazione, di sofferenze, sangue che si unisce ad altro sangue in una catena terribile di eventi. In queste condizioni Jacqueline Sauvage affronta un interrogatorio in cui non riesce a dimostrare quanto la sua vita sia stata oggetto di angherie, di soprusi, quanto i 3 colpi tirati al marito, benché tirati alle spalle, siano evidentemente legittima difesa. Insomma, la donna viene incriminata per omicidio volontario, trattenuta in carcere. Il 28 ottobre 2014, 2 anni dopo, la corte d'assise la condanna a 10 anni di carcere per omicidio volontario. Durante il primo processo lei appare una donna fredda, incapace di provare emozioni, e questo suo atteggiamento innesca dei dubbi sulla legittima difesa. Poi ci sono le testimonianze dei vicini di casa che raccontano di un marito violento, ma anche di una donna che non sempre si era resa simpatica nei confronti dei vicini. Insomma, piccoli dettagli che indeboliscono la tesi della difesa della donna, e per lei si aprono ancora una volta le porte del carcere. Ma a chi pensa che la pena sia spropositata, che non si sia tenuto conto dei 47 anni di soprusi, risponde Alain Leroux, il delegato dell'Associazione Magistrati francese. Credo che si sia tenuto conto, per esprimere il verdetto, della situazione esistente. Anche perché in presenza di una pena massima che equivale all'ergastolo, Jacqueline Sauvage è stata condannata a 10 anni. 10 anni di reclusione criminale. Beh, è chiaro che questo signore, essendo parte dell'Associazione Magistrati, deve cercare di difendere la categoria, però bisogna dire che l'assoluta mancanza di una minima denuncia da parte della donna sugli atti di violenza del marito pesa sulla sentenza. Poi il processo si svolge tra alti e bassi, non bastano le testimonianze delle figlie, insomma trascorre un altro anno. Il 1 dicembre 2015 arriva il processo d'appello. Jacqueline è assistita da 2 donne, il giudice è una donna, sembra una situazione ideale per veder girare il giudizio a favore dell'imputata, e invece la pena viene confermata, anzi aggravata, da un periodo di carcere di sicurezza. Insomma, la donna dovrà aspettare fino al luglio 2018 per fare richiesta di libertà condizionata. Le 3 figlie si lasciano andare con la madre a un abbraccio terribile, e attraverso le sbarre dell'aula il silenzio viene rotto solo da queste 4 donne che stanno piangendo la loro disperazione. La scena viene ripresa dalle telecamere. J'espère que ce jour-là on nous donnera notre mère pour de bon et qu'on nous foute la paix de tout ce que j'ai à dire. Eh sì, avete sentito una delle figlie che dice: spero che nostra madre venga ripagata da quello che ha subito, che qualcun altro paghi. Insomma, la situazione è veramente drammatica e scuote le coscienze. Accade qualcosa di inaspettato, perché queste immagini del pianto di Jacqueline Sauvage, che chiede anche scusa alle figlie, insomma, è un'immagine che rimbalza sui telegiornali francesi, sul web, e tutto viene amplificato dal fatto che le figlie presentano la richiesta di grazia al presidente della Repubblica François Hollande. Quello che non ha deciso una giuria istituzionale forse può essere deciso, ribaltando la situazione, da un plebiscito popolare. E nel gennaio 2015 l'attivista Karine Plassard apre una petizione su internet per raccogliere firme per sostenere la domanda di grazia presentata a Hollande. La notizia rimbalza da un lato all'altro del web, perché il web può essere un veicolo terribile, ma può essere anche un'opportunità molto più rapida delle raccolte di firme ante internet. Insomma, vengono raccolte 400.000 adesioni. Non ci sono solo delle donne che si schierano dalla parte di Jacqueline Sauvage, anche l'FMN, il gruppo di attiviste, quelle che compiono incursioni a seno nudo per esprimere le loro proteste, effettuano un blitz proprio all'esterno del carcere dove è reclusa la donna. Giustizia! Sauvage! Libérée! Les femmes contre-attaquent! Libérée! Insomma, l'affaire Sauvage diventa un affare nazionale. Dibattiti televisivi, personaggi del mondo della cultura, dello spettacolo che si schierano a favore della donna reclamano la grazia presidenziale. La faccenda diventa anche oggetto di dibattito politico in Parlamento, perde parte del suo valore sociale per diventare oggetto di scambio d'accuse tra i vari partiti di governo e di opposizione, come sempre accade, insomma viene anche un po' strumentalizzata, mentre Jacqueline Sauvage vive tutto questo in carcere, vive il suo, diciamo, colpo d'ala verso l'alto o verso il basso, decidete voi, soffre per avere perso un figlio che si è suicidato per colpa delle violenze fisiche e psicologiche inferte da questo marito che lei ha ucciso, ha perso la credibilità, lei, insomma, è il momento più triste di questa storia, però l'Eliseo è messo alle strette. Hollande non si è mai pronunciato favorevolmente per la grazia, perché la considera una istituzione d'ancien régime, però questa volta ha sottovalutato il potere della mobilitazione della rete. Ogni giorno questo movimento acquisisce più forza, lo ricorda anche Alain Leroux, delegato dell'Associazione Magistrati Francese. Il y a sur internet. Esiste su internet una nuova possibilità, uno spazio pubblico di riflessione, in cui si manifestano pareri contrastanti, in cui parla la gente che si esprime pubblicamente su fatti e avvenimenti tra loro legati. E questo spazio, secondo il mio avviso, va a intaccare anche le normali procedure della giustizia a cui siamo abituati. E in Parlamento si discute un nuovo progetto di legge per estendere il concetto di legittima difesa, considerando una violenza domestica subita per lunghi periodi di tempo e quindi non legata solo a un singolo frangente. Il dibattito sulla violenza sulle donne diventa un campo di battaglia che serve a migliorare la legislazione, alza il livello di attenzione sul problema, e tutto questo per merito del terribile atto compiuto da Jacqueline Sauvage. Il 31 gennaio 2016 il presidente Hollande accorda a Jacqueline una grazia parziale, non è una decisione definitiva, è una proposta presidenziale che deve essere ratificata da un tribunale. Questo significa che ancora una volta la vita, la libertà di Jacqueline rimane nelle mani di un tribunale che si riunisce l'8 febbraio. Insomma, il potere politico si scontra contro il potere giudiziario, che difende con le unghie, con i denti, la sua indipendenza. In tutta Europa, insomma, il potere giudiziario, lo sapete, interferisce nel potere politico, reclama la sua giurisdizione, e quindi anche in questo caso la domanda di grazia viene respinta. La decisione di oggi è totalmente politica, totalmente a favore del potere giudiziario che vuole affermare la sua sovranità e non tiene conto degli elementi probatori emersi nel processo a favore di un detenuto. Questa era Nathalie Tomasini, che è uno dei due avvocati che difende Jacqueline Sauvage, e le sue sono parole forti. È un atto di accusa preciso, si denuncia un atteggiamento della magistratura contro il Presidente della Repubblica, cose che in Italia conosciamo bene. Si deve attendere ancora alla fine del 2016, quando il 28 dicembre il Presidente Hollande prende la situazione in mano e fa un atto rivoluzionario, twitta: ho deciso di accordare a Jacqueline Sauvage lo sconto del residuo della sua pena. Questa grazia mette fine immediatamente alla sua detenzione. Insomma, e il presidente esercita il massimo dei suoi poteri, concede alla donna la grazia definitiva. Non è una soluzione, perché per la giustizia lei rimane colpevole di aver ucciso il marito, ma la pena residua da scontare viene condonata. Finalmente per lei si aprono le porte del carcere. E questa è una storia importante, ahimè, una storia di violenza gratuita, non è la prima, non sarà purtroppo l'ultima, però il dibattito nato attorno a questa vicenda è servito a migliorare le cose in Francia e di riflesso anche nel resto del mondo, e a far sì che la donna sia più tutelata, soprattutto dagli atti di violenza gratuiti e insopportabili, quelli che si compiono quotidianamente tra le mura di casa. Il terribile colpo d'ala che Jacqueline ha dovuto mettere in pratica, in qualche modo ha mosso